fatto caro, bellissima. Sei stato sale mica te frida de mo mai porto fu minde buzo a coci minde no ca tem ci da ne ma ruato la macchina non la cosa fatta ogni dice ogni ogni son che valoru acco a ogni son se non a chi sta ronda ra proprio anna mi ne hai vero bagger con baby si fa che la chiesa sto cazzo di gara che è una cosa sì è da un momento che ci sono onna ti sono avuta ti sono stai a te tu da te però io da fan aereo ti svico in come l'empo dentro oggi ti dove è caduta sì, beh, ora dai, lì le ti dove è ma si spotta, non è che si sta un po' di pesce vette si spotta, non so se ti è con i campi e tu va e te ne ripetita, molto bella che è fatta veramente, di che? Ma come hai detto Ricco, io avevo Ricco? No, ma così scolava. Già l'avevamo la casa, forse Ricco, però io... Ma io posso fare la stessa cosa? Cosa hai detto? Ma che sono niente? Guarda... Io ho detto che mi vado a bella faccia a te. Vedi male, ho chiesto una cosa, no? Chiesto una bella cosa, ora allora io. E gli fai la testa marcia la testa non te passa bene Thank you. nem jó, nem mindegy. Hmm. Á, vesz fel a lapát is. Hol a lapát? Nem, ez útba lett volna. Na, tényleg nem a lapáta vagyok mostan. Látom. Ez is szakadt itt a nenia. Indulunk. Jó, akkor csak ezt az egy nagyon keverül eszem. nehéz. Ez nem, ez egy... Itt van a tetején. Ő a szobám. Na? Pont, azt mondja, hogy kicsit jól nem, ez a hova megyünk már arra. Na majd megyünk konszíj gyerekkel, mert... Mi a baj? Na, szia! Őrakjuk az ügyeket, megyünk a partit.